prepararsi alla velocità luce. No, la velocità luce è troppo lenta. La velocità luce è troppo lenta. Sì, dobbiamo passare direttamente alla velocità smodata. Velocità smodata? Signore, non siamo mai andati così veloci. Non so se la nave potrà sostenere. Qual è il problema, colonnello Nunziatella Cacarella? Preparare la nave per la velocità smodata. Allacciate le cinture di sicurezza, chiudete le entrate e le uscite, chiudete tutte le boutique e il piano bar, abolite le entrate di favore, chiudete tutti gli animali nello zoo. Dio a me, specie di ufficiale da quattro soldi. E adesso stia a sentire, velocità smodata. Signore, non allaccia la cintura. Me la sbatto la cintura. Velocità smodata, via! Fuoco alle polveri. Radio Bomba. Buonasera e benvenuti alla 16ª puntata di Fuoco alle Polveri. E io non cambio. Ciao. Mai. Nulla, non si cambia nulla. Se non la velocità smodata. Bellissimo, bravo. Allora, vuoi sapere... Eccolo. Ho fatto caso che era lo stesso doppiatore di Cliff. Quello di Cliff. Zap Brannigan. Cliff. Ah, la mia, cioè, lo schiavo. Sì, quello che Zap Brannigan. Cliff. Bene, dicevi Guido? Ecco, ora ho collegato. Vuoi sapere 16? Cosa ho preparato oggi? Certamente. Sei curioso? Certamente. Allora. Cioè, in realtà vedo, ma ho paura. Perché hai paura? Vediamo. Sì. Allora, 16 come 16 psiche, che è il nome di un asteroide. Sì, della fascia psiche. Principale è una delle più grosse perché è grande 250 km. In che senso grande 250? Cioè è lunga 200. Di diametro, scusami, cioè c'ha il diametro di 250 km. È tantone, sì. Ma è un asteroide, quindi non ci arriva addosso. Non può arrivare. No, è un asteroide. Meteorite, sì. Ok, questa è quindi la differenza tra l'asteroide e il meteorite. Sì, esattamente. Si impara sempre cose nuove. Fascia, sì. Soprattutto a Fuoco alle Polveri. Perché ti dice un sacco di cose e io non lo so. No, volevo dire, è stata scoperta per la prima volta da Annibale De Gasparis. Non De Gasperis, ma De Gaspera Paris. Sì, possiamo metterci anche senza l'S. Sì, hai ragione. No, perché volevo dirlo? Perché l'hanno visto da Napoli, dall'osservatorio astronomico di Capodimonte. Sì. Che è sotto l'Unino. Nel 1852. No, Napoli. Unina. Unina. Che stai dicendo? No, è l'Università di Napoli. Ma siamo bene, ok. Invece diciamola a Salvini. Diciamola. Infatti parleremo, appunto, io lo volevo dire proprio per questo, collegandolo al fatto che noi tra un po' cominciamo a inveire, come il nostro solito, questo Salvini. Sì. E nel 1852, dicevo. Sì. Cioè, un sacco di nomi. Il 17 marzo. Ok. Bene. A posto, bene. Completissimi oggi. Bravissimo. Non c'è, non riesco a trovare niente da chiederti che ti possa mettere in difficoltà. Tra l'altro. È un casino. Te lo so che è il tuo gioco. Ci sto provando, preferito. Ma è davvero difficile. Cioè, pensavo di riuscirci con. Invece oggi ti ho fatto la combo perché te la collego alla velocità supersonica di prima e sì. Poi a Napoli che arriva dopo. Perfetto, cioè, ciao. Allora, fai tutto da solo. Allora. Sì. Partiamo carichi. Partiamo una canzone. Non dico più canzoncina. Bravo. Sì, ho pensato tutta la settimana. Ti ringrazio. Ho capito, avevi ragione, non lo dico. Quindi un pezzaccio. Dai, sì. Qui su Radio Wombat. Party people, your dreams have now been fulfilled. Get your ass up and let's get ill. That's right, y'all. We're more than rough. We're calling you bluff. And when it comes to rock, I spend too much time straight talk with the catch that etch my line walk. Never fetch it for crime. Hawk, who goes there? Yo, it's a squeeze of five fingers puffing smoke in the bed. Shining black like Darth Vader caps. Stay on stairs. While we rocking it, I rockin' it. Rockin' like it. A little ball inside spray can. Providing three coats for both child, woman, and man. God bless the guard, lady streets, wall to wall it go. Ooh, ooh, ooh. Yo, you got popped like a flick by that rivalry click and win. Asphalt. Got your chin touched by my fam who thought you brought harm. You see, I'm iced out like a glass of tea. Better yet, oatmeal cookies. Y'all just rookies to me. Sliding up and down the court, but I don't think you can D. Why try? Maceo been getting high since Luke was Luke Skywalker. Man, my topic of talk is shedding shame all over your game. Like them shorties who claim that Afrocentric loving is the past drug. My life filled with that's what thugs love. Snack you fast, wrap that ass in the rug of your choice while it muffles your voice. Now when I'm swimming through the joint, I put the funk on hold, cause if you don't, you'll see the bubbles come up. We run up a tab and gladly add a little extra for miss. Flashy faces with bigger lips for that ass to kiss. Most crews oppose current while we're forever. Direct beats that's contagious, loved by all ages. Graduated from the UNIversity of hard hitters for real. I got niggas in the streets that'll blast your ass for the shine and get. Ooh, ooh, ooh, yo, if you a fat chick, getting your fuck on tonight and go. Ooh, ooh, yo, put your hands opposite to the ground if you're loving that sound. Go. Ooh, and to my broke niggas on the corner holding me down, go. Swear Tommy gon' get it, he done did me wrong. I have plans to buy more land, plant corn, bust kernels on heat. Work hard like wetbacks, setbacks gon' get my ass pee hostile. Rock wall of the beat, top dollar the feet. Big money's make the big decision. Keep hip hop alive is just the intermission. Back to the second half of the feature flick, thick stacks and fuck rap. I had a thing for making paper since paper mache. Now my dollar coins join pounds again to play. While you broke niggas reach drunk much quicker. You don't make enough bread. Soak up all your liquor with God, God damn. Damn, God, you're killing it. Should incorporate it, invest half a million in it. Rap cats talk with no will in it. Sounding like they virtual. This joint will hurt you, yo. Was the night before Christmas and my crib got robbed. They did a job. Took all the goodies up from under the tree. Except the CDs of shiny suit rappers and flossing MCs. Fail at taking it to rhyme the game. So them whack pones get no plan. Our homes, you need to not get nappy with me, or else we gon' relax your mind. Let the conscience yo, free. Yo, where my Wall Street niggas if you're up in the stands? Go. Ooh, ooh, ooh, to my women that'll throw their hands against their punk ass man. Go. Ooh, ooh, ooh, yo, if you never been shot or stabbed, Brick City, go. Ooh, ooh, ooh, yo, I gotta catch a cab back to the lab so I can smoke. Ooh, avete la mia completa attenzione. Vi giuro, parto la settimana in modo migliore dopo aver ascoltato le citazioni della nostra regia. Sicuramente. Perché mi ricordo. Ma guarda, ma noi ci siamo un bel lunedì alla fine. Non è mica da tutti avere un lunedì. No, così infatti siamo privilegiati. Privilegiati. Oltre a essere la parte privilegiata del mondo, sì, siamo anche dalla parte privilegiata della radio. Sì. No, no. Stragiono oggi. È buono, sì, è buono. Sì. E allora, subito il collegamento con quello che dicevi prima, che su Napoli. Nabulè. Sì, perché la settimana scorsa mi avevo detto che ci sarebbe stato divertimento e a Napoli. E poi il divertimento non è tanto, nel senso che si scherzava, no. Ma insomma. Abbiamo visto un po' tutti quello che è successo, come un po' tutte le volte che il nostro amico Salvini si muove. E se me alla fine una cosa che può essere una parte positiva, una parte negativa, dipende un po' insomma dal lato in cui la prendi. Però è che in generale poi le mobilitazioni quando c'è Salvini sono unificanti di veramente ampie parti di popolazioni, nel senso che le città si mobilitano. Alcune città, non tutte città, alcune città si mobilitano veramente in massa e secondo logiche di solidarietà che non in altre occasioni sono difficili da trovare di fronte a una persona o comunque al suo movimento, quello partito, che porta un pericolo che la maggior parte delle persone, secondo me, poi alla fine che vivono nelle città sentono, quindi la xenofobia piuttosto che appunto il razzismo, la non accoglienza, la violenza di certe posizioni. Assolutamente. Peraltro, ora io facciamo ascoltare allora l'estratto. Sì, se il nostro regista ce l'ha, c'è un estratto di. Che intitolerei Il Sud non dimentica. Esatto. Io non mi scordo mai di quello che voi mi avete detto. Cioè, non dimentica. Non dimentica. Non può mai dimenticare. Pensano che il popolo è strunzo, senza sapere che il popolo è 100 volte più intelligente di loro. Tu a Napoli andiamo lì! Se è napoletano, siamo buoni per te, che abbiamo fatto noi! È lui che puzza, non noi napoletani. Non dormiamo neanche più a Munizzo. Salvini! Ciao, meno, perché non dormiamo più a Munizzo. Venisse! Tu offendi noi offendiamo te. Senti che puzza, c'è Matteo Salvini che vuole voti, ma va fe buchi. Niente, questo era un piccolo estratto da un video che abbiamo visto. No, però la bellezza secondo me di questo, che è poi l'audio di un video, sì, è che sono persone comuni. Sì, sì, prese per la strada. Si veramente tantissimo. Di qualsiasi tipo, cioè dai tifosi. Sì, sì, sembravano onorevoli. No, non erano onorevoli. Non lo erano. Però era questo, insomma, il sud non dimentica. Sì, era un po' appunto lo spirito, penso, anche di quella giornata. E appunto, al di là di quello che poi ci fanno vedere, che sono soltanto le mattonate o le molotov, ancora non ho visto. No, però, sì, esatto. No, che c'era appunto 15-20 mila persone in piazza. No, che c'era sempre nel video, c'era, no, questa signora che accanto a questo ragazzo di colore gli diceva ora ce l'hanno con voi e prima ce l'avevano con noi. Sì. No? Cioè, sempre sì, il nemico tanto si passa, sposta, però alla fine assurdo, ma per fortuna un po' di tempesta si raccoglie dopo aver seminato vento. Sì, sì, è un po' quello, nel senso che ci sono anche pochi discorsi a fare sulla democrazia, il permesso di parlare, il fatto che Salvini non si può muovere senza che succeda questo e senza che sì, che poi non, hai visto chiaramente i telegiornali ne mettono sempre dal punto di vista che c'è casino e non che sia lui a provocare questo casino, certo, perché la tensione l'alza lui arrivando, no? Sì, non solo arrivando, ma e con le sue dichiarazioni, certo, con certo. Sì. Bene, cioè bene una sega. Bene, male. Sì, tra l'altro un'altra delle cose di cui parlavamo la scorsa settimana, che era quella dell'occupazione della a Bologna, sì, della consultoria. E che era appunto se ne parlava in vista dell'8 marzo come una parte delle varie mobilitazioni che ci sono state in tutta Italia. Sì. È stata sgomberata il giorno, il 9 marzo. Il 9 marzo, sì, 4 giorni dopo. Sì, a Bologna non perdono tempo. Bologna è un periodaccio, ma da un po' di tempo, sì, in realtà. Cioè, sì, sgomberi veramente di un sacco di realtà interessanti, purtroppo. Però, nonostante questo, ci siamo contenti della riuscita della giornata, esatto, dell'8 marzo, che è stata in tutta Italia super partecipata. Tutte le piazze sono state cortei, anche quello, che non si vedevano conflittuali e unitari insieme. Un po' anche i miei c'erano. Anche i tuoi, lo so, lo so. Hai visto? Sì. No, io no, no, io non l'ho visto. Invece ti dirò una cosa, io sono andato a Bologna. Hanno fatto il test, che genere sei i tuoi? Non lo so, non glielo ho chiesto. Ci fai sapere? Sì, ve faccio sapere. E io ero a Bologna, sì, che dovevo consegnare la tesi, e la professoressa non c'era perché era in sciopero. Ah, grande, giusto. L'ho raggiunta in piazza. Ok, in piazza. Ok, buono, dai. Sì, e c'era un sacco di gente anche a Bologna. Sì, lo so, sì, sì, però sì, era già del pomeriggio. No, però è stato, sì, è stata forte come cosa. E poi, sì, no, niente, basta così. Non ok, non vuoi svelare troppi dettagli della di me stesso, della tua vita privata. Vabbè, ha funzionato molto lo sciopero dei treni. Se ha funzionato molto. È stato 2 ore e mezzo il treno la mattina. Però alla fine ci sta. No, quindi dai, bella giornata. Poi purtroppo appunto le conseguenze a volte si vedono dopo, perché ovviamente non lo fanno il giorno stesso, quando ci sono tutti con le orecchie aperte, gli occhi aperti, certo, a guardare cosa succede. Ma lo fanno il giorno dopo, quando tutti sono stanchi a casa dopo quello che hanno fatto. E ho detto lo butto nel culo. Comunque che facciamo? Posso fare un urlo un attimo? Certo. Dietro? Pizzo! Chiudi la porta, Pizzo! Okay. E sali! Capito, ragazzi? Allora, praticamente è arrivato il Pizzo. Gli abbiamo intimato di chiudere le porte e ma sta il Pizzo è sordo, no? Pizzo è un po' sordo. Sì, un pochino. Suonerà. No, suonerà no, per noi e per voi, tra poco. Ottimerrimo, addirittura. Mandiamo un pezzacchio. Dai. Fuego alle polvere. Your Wombat. Take 2. Take 2. canzone era, Andre? Era Helter Skelter. Ok, beh, non l'hai riconosciuto. Grazie. No, io non lo sapevo scrivere, quindi non mi piace, scusate. Ho dovuto chiedere il regista. E niente, iniziamo con... Assolutamente. Dobbiamo subito il tasto. Non vedo l'ora. Informissimo. Informissimo, bene. Dai, iniziamo. Sigla! E ora... E ora legge Tasso. Con molto pregevole giudizio è stato detto d'un libro tedesco: questo non si lascia leggere. Vi sono segreti che non si debbono dire. Vi ha degli uomini che muoiono alla notte nei loro letti, storcendo le mani degli spettri cui si confessano e intensamente covandoseli con occhio di pietà profonda, degli uomini che muoiono con la disperazione nel cuore e le convulsioni alla gola in causa dell'orrore dei misteri che non vogliono punto essere disvelati. Oimè, oimè, non di rado la umana coscienza supporta tale fardello di essere, sì, penoso orrore, che non le riesce a alleggerirsene se non sotto le mute zolle della tomba, e così l'essenza del delitto perdura mistero inesplicabile e profondo. Non è valico gran tempo, ed era in sul morire d'una sera d'autunno, che io me ne stavo seduto innanzi la spaziosa arcuata finestra del caffè, a Londra. Durante più mesi una triste malattia mi aveva legato al letto, ma di quei giorni io correvo la mia convalescenza, e ritornandomi le forze mi trovavo in una di quelle felici disposizioni che sono proprio l'opposto del nero umore e della noia, disposizioni in cui gli appetiti morali sono meravigliosamente desti e vellicati, allorché il velo che avvolgeva le arcane visioni dello spirito si scinde, e lo spirito, come ebbro, si eleva tanto prodigiosamente sopra le ordinarie sue forze, che l'ardente e candida ragione del Leibniz pienamente la vince sulla stolta e molle retorica del Gorgia. Quel solo poter respirare un po' libero era già di per sé un godimento, ed io centellinavo proprio un piacere positivo anche nelle varie reali sorgenti dei miei stessi guai. Misteri di uno stato in cui l'energia fisica s'accoppia alle facoltà sopraccitate del nostro spirito. Ogni oggetto a me d'intorno mi ispirava un interesse calmo, sereno, ma pieno di vaghissima curiosità. Un sigaro in bocca, un giornale sui ginocchi. Io me ne ero stato seduto durante la massima parte del giorno, ora a scorrere attentamente gli annunzi di quella quarta pagina, ora ad osservare la multiforme società nelle sale, ed ora a guardare attraverso i vetri appannati da vapori del fumo quando si passava in strada. La quale, essendo una delle precipue arterie della realtà, per tutto il giorno era stata percorsa da folla immensa, ma al sopravvenire della notte la folla, quasi onda crescente, di minuto in minuto s'era venuta addensando, e tosto che tutti i fanali furono accesi, due opposte correnti di popolo, coerenti, fitte e continue, fluivano dinanzi la porta. Io non mi ero mai trovato in una circostanza simile, la circostanza soprattutto di questo particolar momento della sera, e quel tumultuoso campo di teste umane mi colmava di un'emozione dolcissima, un'emozione, anzi, tutta nuova. Alla fine non mi prestai più veruna attenzione a quanto si passava nel caffè e rimasi completamente assorto nel contemplare la scena del di fuori. Dapprima le mie osservazioni assunsero un colorito astratto, di fine e generale analisi. Osservavo quei passanti a masse e il mio pensiero non li considerava che nei loro rapporti collettivi. Non di meno in breve trassi a particolari ed esaminai con minuzioso interesse le varietà innumerevoli delle figure, gli abiti, l'incesto, le telette, l'aria, i fisi, l'espressione delle fisionomie, insomma. Il maggior numero dei passanti ostentava un contegno convinto e proprio degli affari e pareva unicamente preoccupato ad aprirsi un passo in mezzo alla folla. Aggrottavano le sopracciglia, rotando gli occhi lampeggianti, e ogni qualvolta fossero urtati da qualche vicino, nessun segno di impazienza si rivelava sui loro volti, ma racconciavansi pazienti le vesti ed acceleravano i passi. Altri, una classe eziando numerosissima, era nelle loro mosse irrequieti, avevano sanguigne, facce e parlavano tra sé gesticolando come se pel petto stesso di quella moltitudine infinita onde erano circondati si sentissero soli, e quando in quell'andare venivano fermati cessavano d'un tratto quei loro borbottamenti, ma raddoppiavano i gesti e con un sorriso distratto e sgarbato attendevano il passaggio delle persone che avevano loro fatto ostacolo. E allor che venivano urtati e spinti, abbondantemente salutavano gli urlanti e parevano colmi di confusione. In queste due grandi classi di uomini, tranne quando testé notai, nulla si scorgeva di veramente caratteristico e spiccato. Gli abiti loro appartenevano a quell'ordine che tanto esattamente definito da questa parola, decente. Erano egli senza dubbio gentiluomini, mercanti, procuratori, provveditori, cambisti, gli europatridi e il servidorame dell'ordine sociale, uomini di piacere ed uomini attivamente avvolti in perpetui affari che maneggiavano sotto la diretta loro malleveria. Essi però non eccitarono molto la mia attenzione. Invece, chi saltòmi tosto agli occhi fu la razza dei commessi, in cui distintamente apparivano due notevoli ordini. Vi erano i piccoli commessi di case a credito, giovani signori tutti chiusi nei loro abiti, con gli stivali ben lucidi, la chiamatuta racconcia ed oleazzante, e l'insolenza sulle labbra. Tacerò quel che non so, che è di petulante nei loro modi, che riuscirebbe molto difficilmente a rilevare in una semplice parola. Il genere di queste persone mi parve esattamente simile a quello che 12 o 18 mesi innanzi era si tenuto come la perfezione di un cosiddetto bon ton. Discerneva in essi la nobile schiuma della feccia della gentry, locuzione che mi avviso definisce nella più scultorea maniera questa classe specialissima. In quanto poi alla classe dei primi commessi, ai commessi delle cosiddette case solide, ossia dei vecchi colleghi stabili, sarebbe proprio stato impossibile di cadere in abbaglio. I loro abiti, calzoni bruni o perfettamente neri, quel non so che d'agitato nei modi, le cravatte, i loro stessi panciotti bianchi, le scarpe comode, sode, con calze grosse, ossia con uose, ricadenti, insomma, il loro complesso li qualificava a prima vista. Quasi tutte le loro teste erano interamente calve e il destro orecchio sempre uso a reggere la penna. Aveva contratto un po' di piega all'infuori. Specie davvero rispettabile per uniformità di principi e di metodo, specie privilegiata. Io osservavo che si toglievansi e rimettevansi sempre i cappelli con le mani che portavano orioli a corte catene d'oro, di solido e vecchio modello. Loro affezione, la rispettabilità. Ammesso tuttavia che vi si possa essere affezione tanto onorevole. E c'era un buon numero di individui dalle apparenze splendide, tosto da me riconosciuti e appartenere alla razza del canagliume più matricolato, di cui sono infestate tutte le grandi città. Esaminata con la massima curiosità cotale specie di gentri, riuscivami difficile il comprendere come essi potessero venire presi per gentiluomini, davveri gentiluomini. Sembravami che quelle... Sembravami che quell'esagerata lor mostra di manichine, quell'aria impudente e franchezza, li avrebbe potuto smascherare a prima vista. I giocatori di professioni, ne scopersi gran numero, ancor più facilmente davanti all'occhio, portavano d'ogni specie telette, da quelle del più perfetto mezzano giocatore di bossolotti, dalla sottoveste di velluto, la cravatta di fantasia, le sfarzose catene di rame indorato e i bottoni di filigrana, alla teletta del prete, semplice, sino allo scrupolo per evitare ogni ombra di sospetto. Non di meno, tutti costoro si distinguevano per un colorito abbronzato e fosco, per non so quale vaporoso offuscamento della pupilla, per la compressione, la lividezza delle labbra. Eranvi inoltre due altri indizi che me li facevano subito riconoscere, tono basso e riservato nel conversare, e una più che ordinaria disposizione del pollice ad allungarsi sino a far angolo destro con le dita. Spessissimo accompagnato a questi bricconi notai qualcuno che discostavasi un poco dalle loro abitudini, però erano sempre tutti uccelli delle stesse pene. Ne volete la giusta definizione? Cavalieri d'industria. A mugnere il pubblico e dividonsi in due battaglioni, il genere dei damerini ed il genere militare. Caratteri principali del primo, le zazzere lunghe e sorrisetti studiati. Del secondo, i lunghi mantelli e il burbero aggrottare delle sopracciglia. Discendendo la cosiddetta scala della classe sociale, trovai soggetti d'esame ancor più nero e profondo, ivi, merciaiuoli, ebrei, dagli occhi falchetto, scintillanti sulle cui fisionomie errava un'umanità abietta e maligna, e sfacciati mendicanti di professione che sgarbatamente urtavano altri miserabili di mensinista apparenza, sventurati, che la sola disperazione aveva gettato tra le ombre notturne a chiedere un pane, e invalidi, cascanti per debolezza, simili a spettri cui la morte abbia già afferrato con più avida mano, i quali avanzavano a stento, barellanti, attraverso la folla, con gli sguardi supplici, fissi su vicini, quasi in questa di una inesperata consolazione, di qualche perduta speranza. E modeste fanciulle, reduci dai prolungati lavori, al meschino abituro, più dolenti che sdegnate agli sguardi degli impertinenti e lascivi, dei quali non era possibile evitare il contatto. E prostitute, di ogni specie e d'ogni età, l'incontrastabile bellezza del primo fulgore della vita che ci rammenta la statua di Lucano, la cui superficie era di pario marmo, e il di dentro di schifose lordure. La lebbrosa tutta struscia, effetente, ributtante e colma d'obbrobrio. La vecchia strega, grinzosa, lorda di pomate e di belletti, sopraccarica di ori falsi, grottescamente studiosa di ritentare le estreme appariscenze della gioventù. La fanciulla, ancora vergine, frutto quasi acerbo, ma di già apparecchiata da lunghi artifici. Provocatrice del commercio, infame, ed arsa dalla divoratrice ambizione di essere già tenuta a paro delle sue vecchie compagne di vizio. E stuolo, innumerevole, indescrivibile di ubriachi, questi... cenciosi, balenanti, slombati dai visi della morte e degli occhi vitrei, quelli con abiti interi, sì, ma squallidi, un chiacchierio di gradassi, grosse labbra sensuali, facce rubizze e franche, altre con vesti di panno, un tempo di prima qualità, ora scrupolosamente puliti, ma ed ancora agnati, uomini dall'incesso fermo, più dell'usato ardito, le cui fisionomie però spiccavano d'un terribile pallore. Gli occhi atrocemente sconvolti e rossi, ed essi, nel farsi largo tutti imprecisati, arraffavano con le tremule dita ogni oggetto cui potessero arrivare. Quinci, pasticceri, commessi, carbonai, spazzacamini, quindi suonatori d'organetto, educatori di scimmie e vendistori, venditori frammisti e cantanti. Colà, artigiani cenciosi e operai, d'ogni sorta, rifiniti per l'eccesso di lavoro, e tutti agitati da sollecitudine rumorosa e disordinata che feriva gli orecchi col suo frastuono, causando allo sguardo una spiacevole sensazione. Man mano che la notte si faceva più profondo si faceva pure in me l'interesse di quelle scene. Non solo si andasse alterando il carattere generale della folla, le più nobili fisionomie di essa scomparendo col graduale allontanarsi della parte più saggia della popolazione, e le più rudi e strane, ponendosi in un quasi grottesco rilievo a misura che l'ora più alta avvolgeva di sua ombra, le multiformi specie di tante infamie, ma i raggi dei becchi, deboli dapprima al volgere del crepuscolo, brillassero ora dovunque sprazzando sopra la cosa una luce fervida e scintillante. Tutto era nero, ma tutto rilucente, a guisa di quell'ebano a cui venne paragonato lo stile di Tertulliano. Gli estrani effetti della luce mi obbligarono a esaminare più attentamente le figure degli individui, e quantunque la rapidità con cui questo mondo di luce fuggiva dinanzi alla mia finestra mi vietasse di fissarle oltre il momento, mi pareva tutta volta che in grazia alla singolare mia attitudine morale spesso potessi leggere in quel breve intervallo, per una avidità intensa della pupilla, la storia terribile di lunghi e lunghi anni. Sempre la fronte appoggiata al cristallo, io me ne stava in tal modo a contemplare la folla, allorché tutto a un tratto ecco apparirmi la fisionomia di un vecchio uomo, da 65 a 70 anni, una fisionomia che issofatto scosse e fermò tutta la mia attenzione in causa dell'assoluta singolarità della sua espressione. Sino a quel momento, lo confesso, di quanti ne aveva veduto, nessuno c'era stato che pur di lontano tenesse un cotal po' di questa nuova apparizione. Io mi ricordo che, vedendo uomo tale, il mio primo pensiero fu che se egli fosse caduto sotto gli occhi di Retch, certissimamente questo l'avrebbe preferito alla immagine in cui studiossi incarnarne il demonio. Ma in quella che durante il brevissimo intervallo che il potei vedere, io lo studiavo per farmi un'analisi qualsiasi del sentimento generale che egli in me aveva trasfuso. Sentì elevarsi nel mio spirito come in un confuso in modo il più stravagante idee proprio nuove, di intelligenza vasta, di circospezione, di spilocceria, d'avarizia, di calma, di ribalderia, di sete sanguinaria, di trionfo, d'allegrezza, di terror panico, di intensa e suprema disperazione. Io mi sentiva come per fascino sopraccitato e colto. Quale strana storia, dissi meco stesso, è scritta in quel petto. E allora mi colse un desio febbrile di non perdere più di vista quell'uomo, di conoscere quanto più potessi di lui. In tutta fretta mi infilai il soprabito e, preso il cappello e la mazza, mi lanciai nella via, affrettandomi a attraversare la folla nella direzione che egli avevo visto prendere. Poiché egli era mi già sfuggito di vista, con qualche difficoltà giunsi al fine a discenderlo. Mi si accostai e gli tenni dietro da vicino, studiando però le maggiori cautele per tema di non attirarne l'attenzione. Ma ora io potevo comodamente studiare tutta la sua persona. Era esso uomo di piccola statura, magrissimo e apparentemente assai debole. Sconce e laceri gli abiti, ma siccome di tanto in tanto passava sotto la fiamma vivissima dei fanali, mi accorsi che la camicia, quantunque assai sporca, era però di finissima qualità, e se gli occhi non mi fecero inganno attraverso un largo strappo del mantello, evidentemente compro di rivendita, in cui con gran cura s'era tutto ravvolto, mi sembrò di scorgere lo splendore di un diamante o di un pugnale. Di quelle osservazioni raddoppiarono la mia curiosità e mi fecero risolvere di tenere dietro all'incognito dovunque a lui fosse piaciuto dirigersi. Ma ormai era notte piena e su tutta la città distendevasi una nebbia umida e spessa che non tardò a risolversi in acqua rugiola, fastidiosa e continua, e questo mutarsi del tempo produsse un effetto bizzarro sulla folla che fu tutta quanta sconvolta da un nuovo movimento, scomparendo sotto un'onda sterminata e fantastica di ombrelli. L'ondulamento, gli urti ed il frastuono si fecero forti 10 volte tanto. Quanto a me, poco pensiero mi dava quell'acqua, poiché siccome erami ancora rimasto del sangue un po' nella mia vecchia febbre, quello stesso umido mi faceva provare una specie di voluttà pericolosa. Mi annodai un fazzoletto attorno alla bocca e dissi meco stesso: avanti. Durante una mezz'ora il vecchio incognito, con gran difficoltà, fecesi strada a mezzo di quella massa vivente, e nel timore di perderlo di vista quasi io calpestavo le sue stesse orme, poiché egli non volgevasi mai a guardare indietro, non fece neanche attenzione alcuna a me. In breve si spinse in una strada laterale che, sebbene ingombra di popolo, non lo era però così come la principale testa lasciata. Ivi successe un cambiamento notevole nei suoi passi. Procedeva più lento, più indeciso, con più manifestata esitanza. Attraversò e riattraversò replicatamente la via senza scopo, manifesto. E qui la folla era sì fitta che io era sempre obbligato di tenermi di tenermeli sui passi. Era una strada stretta e lunga in cui l'uomo aggirossi e rigirossi con ora per un'ora all'incirca, nel qual tempo la folla dei passanti andò poco a poco riducendosi a quell'ordinaria quantità che quasi ogni giorno si vedeva a Broadway presso il parco. Vedete mo qual differenza tra la folla di Londra e quella di una città americana popolosa. A una seconda svolta ci ritrovammo sopra una seconda piazza magnificamente rischiarata e tutta piena di vita. Strano, il primitivo contegno dello sconosciuto cambiò, si abbassò il mento sul petto e i suoi occhi rotearono per l'universo sotto le aggrottate sopracciglia, brillando provocatori sugli astanti. Studiò il passo regolarmente, senza interruzione. Tuttavia, allorché egli ebbe fatto il giro della piazza, io mi accorsi con sorpresa che ritornava sulle proprie orme, anzi fui preso da un doppio stupore, veggendo come ripetesse più volte la stessa passeggiata. E ascoltate, avvenne che, essendosi una fiata voltato bruscamente indietro, poco mancò che non fossi da lui scoperto. Tuttavia consumò una buona ora in questo indefinibile esercizio che infin fine ci lasciò più liberi di noi e quasi, direi, soli. La pioggia cadeva sottile e fitta, l'aria diveniva ghiacciata e le persone rientravano tutte alle loro case. L'errante, con un gesto di viva impazienza, si immise in una vita oscura e quasi deserta, e per un quarto di miglio circa in tutta la di lei lunghezza del cammino, con tale agilità che io non aveva certo supposto di essere dei suoi anni, agilità con cui durava gran fatica il tenere dietro. In pochi istanti ci trovavamo di faccia a un immenso ed affollatissimo bazar. Lo sconosciuto mutava la sua fisionomia a seconda della località rispettiva, e qui egli prese altra fiata, il primitivo suo incesso, e, senza scopo, errando quella, s'aperse la via tra la calda compratori, tra la calca dei compratori e dei venditori. In un'ora e mezzo all'incirca che consumammo in questo nuovo sito, confesso che mi si abbisognò prudenza moltissima per non perderlo di vista, senza svegliare della di lui attenzione. Per buona fortuna io portavo delle soprascarpe, per cui andava e veniva senza destare il minimo rumore. Né egli si accorse neanche un solo istante di essere tenuto di vista, visitò l'una dopo l'altra tutte le botteghe, ma non si infilò nessun negozio, non disse niente, gettava soltanto sopra ogni oggetto uno sguardo fisso, spaventato, vuoto. Invero io mi sentivo prodigiosamente meravigliato della sua condotta, per cui molto tenacemente risolvetti di non abbandonarlo più, se non avessi prima compiuto ogni studio sopra di lui. Quando ecco il più vicino orologio battere sonoramente 11 ore, e allora ognuno a lasciare in gran fretta quel ricco bazar, se non che nel chiudere d'un imposta, avendo un bottegaio urtato del gomito dell'uomo misterioso, istantaneamente notai che un brivido violento lo ebbe assalito in tutta la persona. Si precipitò in strada, in un baleno, si guardò ansioso attorno, quindi con incredibile prestezza trascorse varie strade remote, tortuose, deserte, sino a che di nuovo ci trovavamo nella via primitiva, là donde eravamo partiti, la strada dell'albergo. Ma questa aveva mutato d'aspetto interamente, però i becchi brillavano sempre, la pioggia cadeva diluviando e solo qualche passante qua e là sgusciare e correre. Lo sconosciuto si fe pallido ed un'aria di sepolcro procedette dal quanti passi in quella via poc'anzi tanto popolosa. Quindi, dato un profondo sospiro, piegò nella direzione del fiume, ficcandosi in un labirinto di stradicciuole tristi e remote, giunse infine sulla piazza di uno dei principali teatri. Essendo l'ora della chiusura, le persone ne uscivano in fretta e si allontanavano, e l'uomo misterioso parve, aprendo la bocca, anelar fortemente e si confuse tra la folla, ma notai che l'angoscia profonda della sua fisionomia si era un po' calmata. Lasciò ancora cadere la testa sul petto e mi parve precisamente tale quale l'aveva scorto la prima sera. Osservai però che ora dirigevasi verso la parte percorsa dal pubblico, ma a che celarlo? Mi fu proprio impossibile il poter indovinare alcun della stravagantissima sua ostinazione. Intanto che procedeva, la folla si dileguava ed ecco, a riassalirlo, quel suo primo malessere, quelle angosciose esitanze di prima. Per qualche tempo tenne dietro ad un gruppo di 10 o 12 schiamazzatori. Poco a poco però, uno alla volta, quel numero scemò e si ridusse a 3 soli individui che infilarono una stradicciola stretta, oscura e poco frequentata. L'incognito sostò e per alcuni istanti rimase assorto nelle meste sue riflessioni, quindi, moltissimo agitato, cacciossi rapidamente in una via che ci condusse agli estremi della città, in siti tutt'affatto differenti da quelli attraversati sinora. Era questo infatti il quartiere più malsano di Londra, dove ogni cosa offre l'aspetto il più funesto di una povertà straziante ed un vizio gangrenito. Sotto il livido riverbero d'un fanale scorgevansi molte case di legno, alte, vecchie, invase dai tarli. minaccianti rovine, viuzze sì spesso tortuose, remote, che a malapena poteva si spredi trovare una qualche uscita. Rotto qua e là l'acciottolato, lubrico e in parte nascosto sotto discontinui strati d'erba, e grandi ed orribili immondezze stagnavano negli ingombri gorelli, e tutta l'atmosfera esalava vapori pestiferi nauseabondi. Non pertanto via via che si procedeva il fastono della vita umana quasi a gradi ridestavasi distinto, e infine scorgemmo agglomerati grandi di persone, la feccia più infame della plebaglia di Londra, che venivano, passavano, restavansi e partivano balenanti. Qui il mio vecchio uomo sentì ancora infervorarsi le convulsioni del suo spirito a guisa di una lampada in agonia. Tutto a un tratto ci voltammo da un lato, quale spettacolo, una luce rossigna ed abbagliante ci percosse la vista, e tosto ci accorgemmo di trovarci al cospetto di uno dei più frequentati suburbani templi della dea intemperanza, uno dei palazzi del demonio, Gin. Si avvicinava l'alba, ma una folla di sciagurati ubriaconi stava ancora accalcata e dentro e fuori dal fatale albergo. Il mio vecchio uomo, agitato quasi un grido di gioia, aprisse lo spazio in mezzo alla calca, riprese la primitiva sua fisionomia e, senza scopo deciso, posesi a solcare per ogni verso la baccanella. Ma passati appena pochi minuti che s'ebbe preso tal libertà, un violento sbattere di porte ci rese avvertiti che l'oste, per l'ora avanzata, stava finalmente per chiudere. Ciò che osservai sulla fisionomia di questo essere singolare, da me tanto stranamente spiato, era un non so che di più forte, di più acuto. In quella che compivamo la nostra strada, i primi raggi del sole salutavano il mattino, e tosto che ebbi un'altra volta raggiunto il centro commerciale della metropoli sterminata, la via dell'albergo, questa offriva un aspetto di attività e di moto quasi uguale a quello da me osservato la sera innanzi, e lì ancora, in mezzo alla confusione ogni or più crescente della folla, io persistetti lungamente nel tenere dietro a quell'uomo. Ma secondo il suo costume gli andava e veniva per tutto il giorno intero, e non uscì dall'agglomerato turbinoso di quella via. E quando le ombre della giornata cominciarono lentamente a distendersi, mi sentii quasi annientato per mortale angoscia. Ci pensai, mi decisi, e infine, piantatomi imperterrito dinanzi all'uomo errante, gli sbarrai profondamente gli occhi sopra. Ma non si addiede del mio atto, e calmo e solenne proseguì la sua corsa. Allora, disperato di potergli tenergli dietro, rimasi assorto a contemplarlo per molto tempo, tant'è che egli si dileguò come nebbia, ed io più non lo scorsi. Di poi, destomi come esterrefatto da quello strano stupore, questo vecchio esclamai meco stesso, convinto, è il tipo e il genio più profondo del delitto. La solitudine gli è sempre di peso. Egli è l'uomo della folla, vano il tenerli dietro, che né ora né mai io potrei saperne di più quant'ora so io di lui e delle sue azioni. Sì, lo ripeto, il peggior cuore del mondo è un libro più schifoso dell'Hortulus Animae e forse una delle grandi misericordie di Dio. Ciò che non si lascia leggere. L'uomo della folla, Edgar Allan Poe. Ah, è finito? Scusate. Tasso. Ragazzi, si è passato il limite, andiamo. Rilassiamoci, via. Io saprei una tecnica zen. Ma va, mangia, aziende, mente, in constant sorrow through his day, I am the man of constant sorrow. Seen trouble all my day. I bid farewell to old Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was born. I've been in trouble. sleeping in my grave. While he is sleeping in his grave. Maybe your friends think I'm just a stranger. My face you know. Sì? O ancora no? Take two. Sì, sì, ci siamo, ci siamo. Bello. Spam bam. Tutti qui. Rieccoci qua. Rieccoci. Le persone qui stanno aumentando, eh. Sì, c'è un sacco di gente nuova. C'è un andirivieni. Cioè, nuova. Nuovo cazzo, nel senso di che è arrivato adesso. Sì, che è arrivato adesso, ci fa piacere. Fresca. Fresca, freschissima. Fresca come... come... come la giornata di ieri, bella. Come la fresca rosa lentissima. Che come la fresca rosa lentissima, sì. Giornata di ieri, un po' giornata wombat. Cioè in polveriera c'era il mercato. La giornata di mercato contadino. E c'era però anche un bellissimo banchino di vedo oggi, ci ha capito. Perché in tutto questo te ora c'è la felpa addosso, perché comunque fa ancora freschetto. Però c'è la maglia sotto, una maglia wombat. Ho una maglia wombat, esattamente. Cioè, al banchino c'erano sia i volantini, le spiegavano tutto, sia tutti, e dico tutti, no, tranne forse uno. Era stato perso uno. Sì, tranne quello col naso al microfono. Sì. Che tra l'altro era uno... Tipo il secondo classificato. Era il secondo classificato. Era in finale. Era in finale, comunque c'erano tutti stampati, tutti i loghi che ci avete mandato. Sì. E erano bellissimi, bellissimi. E poi tutto questo materiale sarà comunque riprodotto e portato nelle varie situazioni. Esatto, c'erano i primi adesivi, i primi con prototipi. Alcuni primi prototipi. I primi prototipi. E c'erano anche le prime magliette tiratura limitata. E te subito l'hai acchiappata. E io subito l'ho acchiappata, sì. Urbo. E poi c'è stata anche una diretta radio. Esattamente, tutto pomeriggio. Accanto a questo banchino che era posto all'interno del chiostro di Santa Pollonia sotto un sole meraviglioso, c'era una cassa che mandava la diretta. La diretta di cosa? Come ben sapete, la domenica c'è alle 16.30 La fuga del gatto. Certamente. Che parla, diciamo, di musica classica in generale, però da tutti i punti di vista, quindi. Sì. E, però ha fatto una puntata speciale, una diretta di 3 ore. Boy. 3 ore di diretta in cui sono passati via via quasi tutte le regie di tutte le trasmissioni. A presentare, a portare un pezzo. Esatto, a dire cos'è la propria trasmissione, sì. E ha portato un pezzo. Potevamo passare il pezzo che ti avevi scelto ieri? Non ci avevo pensato. Noi che avevi portato ieri te? Ieri ho portato per Fuoco alle Polveri Mercandede, il pezzo Merchanistan dell'album 800. Perché si legava, lui è un compositore turco, sì. che mescola musica tradizionale turca a musica elettronica. Quindi perché la richiesta era musica classica, però vista in modo un attimino diverso, magari ognuno dal suo punto di vista. Noi siamo una trasmissione molto poliedrica e soprattutto polifonica. Se lo vogliamo mettere e così. Parliamo anche di roba in giro per il mondo, l'ho pensato che è una cosa turca e... Insomma, molto bellino. Dai, la prossima volta magari l'ascoltiamo anche da qua. Sì, magari ne mandiamo un altro. C'è altri due pezzi che avrei voluto portare. Se ne può mandare un altro. Bene. Dove c'è anche un po' di rap turco. Pensate. Insomma, rap in arabo non si sente spesso da noi, quindi. In turco tantomeno. Esatto. Ok. Noi potremmo andare anche avanti. Però aspettiamo ancora un secondo. Sì. E ci guardiamo un po'. Per... Lasciare passare il tempo. No, sto scherzando. No, io volevo dire No, non con parole tue. No, con parole tue. Non mi va. Voglio... Perché c'è Anita. Ok. Sì. Questa è la verità. C'è Anita. Come c'è resistergli? Anita. Come resistere a, un... a far parlare Anita? E ciao. Se parli più vicino al microfono. No, la alza. Ecco. Sì, oh, sì. Eccoci qua. E ti volevamo salutare. No, guarda, salutare... Se, se spasti da on off è la meglio. Ah, ok, ero, ero convinta fosse acceso. Ragazzi, capito? Adesso. Sentite la voce, bene. Non si fa resistere. Perfetto. Sì, noi non, raffreddata, tra l'altro. Anch'io, anch'io. E quindi tutto quello che avevamo da dire possiamo rimandare. Va bene. Per sentire un po' quello che c'ha da dire Anita. Ma scherzi? Ciao ragazzi, ciao. Di nuovo ciao. Ciao. E allora ti introduciamo con la nostra saga. Ah, giusto. La vuoi? Se non la vuoi. Sì, no, no, no, la voglio. Secondo me il colpo di genio è Tata alla fine. Sì. Ciao Anita. Sì. Ciao di nuovo. E oggi vi leggo uno scritto di Pasolini. Raccolto negli scritti corsari. Marzo. Grazie. 1974, gli intellettuali nel 68, manicheismo e ortodossia della rivoluzione dell'indomani. Allora, c'è stato un momento pochi anni fa in cui pareva ogni giorno che la rivoluzione sarebbe scoppiata all'indomani. Insieme ai giovani, dal 1968 in poi, a credere nella rivoluzione imminente che avrebbe rovesciato e distrutto dalle fondamenta il sistema, c'erano anche degli intellettuali non più giovani o addirittura coi capelli bianchi. In essi questa certezza di una rivoluzione dell'indomani non trova le giustificazioni che trovano i giovani. Essi si sono resi colpevoli di aver mancato al primo dovere di un intellettuale, quello di esercitare prima di tutto e senza cedimenti di nessun genere un esame critico dei fatti. E se per la verità si sono fatte in quei giorni orge di diagnosi critiche, ciò che mancava era la reale volontà della critica. Non esiste razionalità senza senso comune e concretezza. Senza senso comune e concretezza la razionalità è fanatismo. E infatti su quelle mappe intorno a cui si affollavano gli strateghi della guerriglia di oggi e della rivoluzione del giorno dopo, l'idea del dovere dell'intervento politico degli intellettuali non veniva fondata sulla necessità e sulla ragione, ma sul ricatto e sul partito preso. Oggi è chiaro che tutto ciò era prodotto di disperazione e di inconscio sentimento di impotenza. Nel momento in cui si delineava in Europa una nuova forma di civiltà e un lungo futuro di sviluppo programmato dal capitale, si è sentito che ogni speranza di rivoluzione operaia stava andando perduta. È per questo che si è tanto gridato il nome di rivoluzione. Non solo, ma ormai era chiara non tanto l'impossibilità di una dialettica, quanto addirittura l'impossibilità di una commensurabilità tra capitalismo tecnologico e marxismo umanistico. Da ciò l'urlo che è echeggiato in tutta l'Europa e in cui predominava su ogni altra la parola marxismo. Non si voleva giustamente accettare l'inaccettabile. I giovani hanno vissuto disperatamente i giorni di questo lungo urlo, che era una specie di esorcismo e di addio alle speranze marxiste. Gli intellettuali maturi, che erano con loro, hanno invece commesso, ripeto, un errore politico. Errore politico che, al contrario, non è stato commesso dal PC. Il PC si è reso realisticamente conto, fin da allora, dell'ineluttabilità del nuovo corso storico del capitalismo e del suo sviluppo. Ed è stato probabilmente proprio in quei giorni che è cominciata a maturare l'idea del compromesso storico. Ammesso che a proposito di un intellettuale non politico, un letterato, uno scienziato, si possa parlare del dovere di un intervento politico, questo è il momento di farlo. Nel 1968 e negli anni successivi, le ragioni per muoversi, per lottare, per urlare erano profondamente giuste, ma storicamente pretestuali. La rivolta degli studenti è nata da un giorno all'altro, non c'erano ragioni oggettive, reali, per muoversi. Inoltre, per le masse, la reale novità storica erano il consumismo, il benessere e l'ideologia edonistica del potere. Al contrario, oggi ci sono delle ragioni oggettive per un impegno totale. Lo stato di emergenza coinvolge le masse, anzi soprattutto le masse. Riassumerei tali ragioni in due punti. Primo, una lotta subita contro i vecchi assassini fascisti che cercano la tensione non più lanciando le loro bombe, ma mobilitando le piazze in disordini in parte giustificati dal malcontento estremo. Secondo, rimettere in discussione il compromesso storico.

Wow. Bravi. Bravissimo. E nulla. Anita ha detto che leggeva, insomma, un pezzo di Pasolini, mi sembrava giusto, insomma, De Andreagliene. Tra l'altro siete gustoso. Entrati in combo, sì. Incredibile. Pezzo, no, è stato bello, ragazzi, da De André. Bravi. Però si fa sempre sbagliata. Te decidi cosa leggere e cosa far suonare anche te. E lui dedica e entra. Bello, dai, bello. Buona idea. Ti è piaciuto, Pizzo? Grande Pasolini. Grande De André. Bravoni. Bravi tutti. Bravi tutti. Ottimo. E non ci dicono Wombat. Che sembriamo registrati o che... Ecco, interagiamo. Dai, siamo bravi. Dai. Bravi. Registrati un tubo. Esatto. Vai. Caro amico e cara amica. Vai, se ti pare. No. Okay. Poi si entra nel loop di qualunque parola dice la collega nella canzone. Si fa una pizza e si fa un concertino. Una volta si fa puntata speciale, concertino di grippo. Va bene. E noi cosa facciamo? Mentre lui fa lanciamo concerti? Le parole che lui deve scegliere per poi far partire la canzone. Vabbè, l'importante è che sia Radio Wombat. Sì, infatti. Senti, noi qui andiamo avanti con un po' di... anche di armonia, alla fine. Certo. Armonici. Però, prima, mi era venuto in mente... sì. Che ho letto un post l'altro giorno su Facebook, non mi ricordo di un tipo, insomma. Sì. Che però ho visto che poi ha avuto, insomma, un po' di risonanza. Su un incontro suo in autogrill con una ragazza che lavorava all'autogrill, faceva il caffè. Mm-hmm. E aveva il cartellino dell'alternanza scuola-lavoro. E niente, quindi mi veniva in mente che sembra essere... E questa fondamentalmente sta facendo l'alternanza scuola-lavoro. Quindi quelle ore okay. obbligatorie che ogni studente monte ore diverso tra i professionali, i tecnici e invece i licei. Certo, i licei no. Però obbligatorie per tutti gli studenti. E le stava facendo dei caffè all'autogrill nella piazzola X dell'autostrada. E questo è l'avvicinamento al lavoro. Esatto, la formazione, il tirocinio, lavorare per fare esperienza, per avere un futuro, per poi essere... bene, però mi sembra che sia un argomento di cui si sta parlando sempre di più, sia in città che anche a giro, insomma, altrove. Sì, assolutamente. Anche con articoli, eccetera, eccetera. In città, penso che a breve sarà annunciata una manifestazione degli studenti che andrà appunto a contestare questo sistema che li rende dei lavoratori non pagati. E tra l'altro è interessante anche vedere come... Perché qui sotto c'ho invece, appunto, se ne parla spesso in questi giorni, mi sembra. Sì. Anche perché sotto mano ho questo libretto, diciamo, pamphlet, compendio, sì, che è l'alternanza scuola-lavoro pubblicato dai Clash City Workers, di cui abbiamo parlato ampiamente. Sì. E niente, fondamentalmente me lo stavo leggendo e tirano fuori diversi spunti interessanti per ragionare intorno a questo argomento, tra cui per esempio tutte le problematiche che subentrano nei posti di lavoro nel momento in cui le aziende possono assumere, cioè possono prendere del lavoro gratuito dall'alternanza scuola-lavoro, quali sono anche le ripercussioni sui dipendenti. Sta facendo un po' la fine che ha fatto il servizio civile, in parte. Esatto, esatto. Cioè, e... solo in quel caso... un'altra fascia di età sfrutti, ma è sì. uguale. E questo, infatti, i ragazzi stessi, no? Si sono mobilitati, esatto, in questo senso. Cioè, esatto. Non è una cosa che viene dall'alto, ma direttamente i ragazzi, e in particolar modo qui a Firenze noi abbiamo visto vari collettivi delle varie scuole, licei e la rete dei collettivi, insomma, in generale, sì. che hanno fatto proprio degli eventi. Sì, degli eventi con i Clash pure. Anche poi. Con i Clash. E anche dei... insomma, documento hanno fatto. Sì, un questionario. Questionario, perché, bravo, scusa. Volevo dire che hanno distribuito nelle scuole e da cui tireranno fuori delle conclusioni o comunque dei dati o comunque delle esperienze di cui parleranno. E tra poco, insomma, nelle prossime puntate vi diremo anche precisamente quando e vi inviteremo ad ascoltare perché è roba interessante. Ma assolutamente, poi è interessante proprio perché viene anche da chi se le vive queste questioni. Certo. E il fatto che siano ragazzi non vuol dire che quindi non possono capire niente, no? Cioè, ma che io non lo dico. No, noi non lo diciamo, lo so. Nel senso, il senso comune è sì. che decide un ministro perché è un ministro, no? Certamente. Cioè, sì. lo studente non si ascolta perché comunque è un minorenne, quindi buono, sì. che ne sa. Certamente. No, e invece no. E invece no. E anzi, è importante. Senti, se qualcuno si ride giustamente. Si ride. E però c'è questo fatto ride. Che ora vedi, qui ridono, chiacchierano, però non sanno, attenzione, sì, guarda le reazioni, che noi abbiamo fame. Sarete pronti a farcela mangiare? In realtà no. Acceso? Sì. Mi sentite? Ora sì. Ah. Ciao Lillo. Buonasera. Ciao. Buonasera. Mettiti le cuffie, bravo. Almeno senti. Cuffiati. Kate. Buonasera. C'è anche la Kate, c'è praticamente Kate e Lillo. Io penso stando sbrillo, una cosa. È la giornata dei due, dei duetti. Duetti. Sì. Come il gelato. Abbiamo una grande responsabilità. Il gelato qual era il duetto? Non me lo ricordo, però vabbè, c'era, però il duetto, buono, sì, c'era il duetto, era il biscotto, il duetto. Vedi, vedi. Il biscotto della San Montana. Era il duetto. Allora, impastando si impara. Non va. Bene, allora, bene, ragazzi. La Kate non ci sentirà, ma parlerà. Ciao, Kate, ci si puoi salutare, per favore, per bene? Buonasera, anzi, buongiorno a buongiorno tutti. Buongiorno, ciao. Bene. Che mi sono svegliata 2 ore fa. Senti, sei furbetta. Ah, 2 ore fa ci fai una colazione. Una colazione. Una merenda colazione. Oh. Ragazzi, io avevo portato la ricetta di una torta al cioccolato che abbiamo tutti quanti mangiato ieri sera. Falle buche. Falle questa buche. È la mia tutto attaccato. Hashtag falle buche. Ero un po' indecisa perché è proprio grassissima, c'è cioè una porcheria. Ho capito. Questa torta. È una di quelle torte che fai una volta l'anno e poi te la scordi. Fai una volta l'anno. O quando c'ha il premestruo violento. Mi succede spesso. Le voglie strane. Sì, sì. Carenza d'affetto. Noi non presente, siamo. Presente. Però, così. Carenza d'affetto, sì. Quindi. E quindi, Lillo, nel senso, se vuoi racconto questa ricetta. Dai, va bene, va bene. E te mi puoi dire, ma che schifo, sì, ma nel va senso, bene. Io faccio... io ne conosco una meglio. Magari, vai, va bene. Ok, da supporto. Allora, possiamo fare due ricette di dolci. Giustatevela voi, facciamo una cosa. Noi ci ritiriamo. Voi vi ritirate? Sì. Ah, grazie. Sì, sì. Vai. Apri allora il dolce. Allora, il dolce, questa torta si chiama Mud Cake. Che è una tipica. Mud. Sì. Mud. Che significa torta di fango. Torta ora di fango. Ora ci arrivo. È una torta tipica americana, quindi è un'americanata proprio per eccellenza. E il nome originale si crede sia Mississippi Mud Cake. Quindi originale sì, del Mississippi oppure perché lo facevano? Perché diciamo prendeva ispirazione quando neri, si fa questa torta, sì, l'impasto sembra proprio del fango. Sì. E quindi ricordava il fango, la melma, diciamo, del fiume Mississippi. Andiamoci così. Vai, sparala. Allora, non impressionatevi, persone a dieta, persone salutiste, eccetera, eccetera. Vai, questo non è il vostro momento. Gli ingredienti sono 250 grammi di burro, 250 grammi di cioccolato extra fondente, 250 grammi di zucchero, ma io gli ho messi 200 perché 250 sono il male, troppo, eh? 135 grammi di latte, 4 uova, sì. 135 grammi di latte, 4 sì, uova, 4 uova, una tazzina di caffè, 50 grammi di cacao amaro in polvere, quindi abbiamo... Il cioccolato fondente e il cacao amaro in polvere. Poi 215 grammi di farina e una bustina di lievito. Di lievito, benissimo. Classica, eccetera, eccetera. Ora, essendo una torta... No. Ecco, questa è la discussione. Attenzione. Essendo una torta americana, gli americani fanno tutte cose al contrario, no? Tutte cose al contrario. Quindi diciamo che questa torta ha una preparazione diversa rispetto a quelle nostre, normali, che monti le uova con lo zucchero. No, in pratica si prepara il bagnomaria. No, non si... Prima la infornano e poi l'impasto. Prima l'infornano e poi l'impasto. No. Però si fa il bagnomaria. Il bagnomaria, sì. Ok. Quindi, e si mette a sciogliere a bagnomaria il burro tagliato a pezzettini. Ok, bagnomaria, quindi spieghiamo per chi è proprio un paleolitico della cucina. Il bagnomaria si fa... Bagnomaria si fa mettendo una pentolina con dentro cacao, sì, e cioccolato, abbiamo detto? No. Bagnomaria, dobbiamo spiegare tecnicamente come si fa il bagnomaria, no? Sapete come si fa il bagnomaria, ragazzi? Voi? Dai. Sì, però magari gli ascoltatori no, dai. Come no? Allora, pentola d'acqua, si mette a bollire, ciotolina sopra, possibilmente di vetro. Possibilmente di vetro. Possibilmente di vetro, allora, che viene molto meglio. E quindi dentro la ciotolina di vetro che è sopra l'acqua si mette il burro tagliato a pezzetti, okay, il cioccolato fondente e lo zucchero. Ok, perfetto. Ok, si facciamo fanno sciogliere tutto. Quando sono sciolti si aggiunge il latte e il caffè. Latte e caffè, i liquidi quindi. I liquidi, i okay, due liquidi. Però benissimo, si continua, diciamo, si tengono su per altri due minutini finché il composto è pronto, quando lo zucchero non è sciolto totalmente. Si è sciolto, benissimo. Poi lo mettiamo di lato e lo facciamo raffreddare, perché ovviamente poi ci saranno le uova, eccetera, eccetera, come... L'altra volta ho fatto la lezione sulle torte. Me la so persa, le regole, vabbè. Non le so, rifasserò, sì, studierò. Allora, poi che cosa c'è da fare? In una ciotola mescolate e setacciate le polveri. Quindi la farina, il cacao amaro in polvere. Benissimo. E il lievito. Setacciare, perché dobbiamo setacciarli? Come perché dobbiamo setacciarli? Perché dobbiamo fargli prendere aria, dobbiamo togliere i grumi, aire, giusto, dobbiamo sì, alleggerire, sì, sì, è vero, è vero, bene, dobbiamo, capito? Ma io lo faccio per vedere se sei pronto, se sei preparato, non è che, cioè, figurati. Quindi che abbiamo fatto? Questa roba a bagnomaria, abbiamo setacciato le polveri e adesso uniamo le polveri al composto di cioccolato. Al composto di cioccolato, perfetto. Quindi ci mettiamo con il nostro, con la nostra frusta o con il nostro sbattimento elettrico e piano piano, sempre setacciando per una seconda volta, anche perché uno più setaccia non meglio, fa male, più aria e incorporiamo tutto quanto per bene insieme, okay. Che cos'è che c'è rimasto che non ho detto? Le uova. Le uova. Ah, le uova, le uova che solitamente nelle ricette italiane vengono sbattute all'inizio con lo zucchero per, sì, farle montare. Qui si sbattono a parte, quindi, okay, quattro uova, pizzichino di sale, le fai montare belle belle e le aggiungi alla fine. Ma scusa, monto i tuorli o gli albumi? Tutto intero. Tutto intero? Intero. Gusci tutto. Però le fai montare, capito? No, no, i gusci no. I gusci io eviterei. Va bene, ok. E quindi si incorporano piano piano con il famosissimo movimento dal basso verso l'alto. Per non smontare le uova, sono delicatissime. Mettiamo in una teglia 22-24 cm di diametro. Perfetto. Ben foderata, ragazzi, perché questa torta cresce molto. Okay. È una cosa importante, il forno è basso, non è soliti, okay, 180-170 gradi, ma è a 150 gradi. 150, piano piano. Per un'oretta e mezza. Un'oretta e mezzo, sì, sì. Quindi storia. Cresce piano piano, sta lì, riposa, riflette, viene su ben bene. Senti, ma te... No, no, finisci, vai. E niente, poi prova stecchino, è una torta molto umida. Prova e risulta veramente... Unta? No, unta no. Umida, molto proprio. Soffice, soffice e umida. Okay. Soffice e umida. Bellezza. Se si vuole si può fare la ganache da mettere sopra, tanto per la ganache, le ganache, so perché, le ganache no, a Firenze sono un'altra cosa, le ganache. E io non ho idea di dolce che cosa. Dolce preferito dei vici. Ah, sì? Vici, ah, ah, l'ho detto. Seguito. Non c'avete le ganache in Sicilia, no? Sì che ci sono le ganache. Ma certo, ma è lo strumento. Però io non ci penso onestamente. Io la prima cosa che mi viene in mente è la crema. La crema ganache. E quindi per fare la ganache, che questa vale sia per la nostra torta di oggi che per qualsiasi torta, 150 grammi di cioccolato fondente e 60 grammi di panna. Bagnomaria sempre, si fa sciogliere tutto insieme e si spalma di sulla superficie torta. Della torta. Sì. Poi puoi mettere noccioline, mandorle, tutte cose, fantastico, pistacchi, quello che senti, vai, ma te preferisci le teglie tonde o quadrate? Per le torte? Sì, per le torte. Ma le torte sono tonde. Le torte le fai tonde? Sì. Sì. La torta, l'avevo detto torta nella puntata della torta, avevo spiegato il perché. È vero. Perché la torta confermo. È tonda? Perché una perché, torta è tonda? C'è stato il tutorial lì. Che stato... ascolta solo quando ci sono io. Mi ascolto solo per me stesso, scusa, sono un po' egocentrico. Dicevi, scusa. Che grande. No, perché venivano utilizzate come contenitori, vero Kate? No, nei riti pagani, ragazzi, ricordavano la forma del sole, della luna, cioè della ruota. Comunque anche io li faccio sempre tondi, sì, sì, tendenzialmente sì. Le faccio tondi, ho capito, col buco no. Nel mezzo. Ma il castagnaccio si fa quadrato. Però il castagnaccio le fa quadrato. Però so queste specie di torte, tipo anche i brownies, ok? Sì, sì. Che sono più compatti, più bassi e non lievitati. I brownies, per esempio, si fanno nella teglia quadrata. castagnaccio, che è più o meno è la stessa storia, perché non è un lievitato, eccetera, eccetera. Si fa, si tende a fare nelle teglie quadrate questo genere. Abbiamo mai fatto il castagnaccio, Lillo? L'abbiamo fatto il castagnaccio? Fatto nella nostra vita, dicevo, nel tra le ricette, no, effettivamente potrebbe. Che tra l'altro con la farina di castagne, io una volta ho assaggiato questa cosa buonissima, che sono tipo, non sono crepe, ma quasi. Necci, te sono i necci. Oddio, che buoni. Fuori di cabeza. Che buoni. Quella ricotta. Sì, dai, la prossima. Va bene. La prossima volta sì, si può fare un excursus sui marroni. Un castagne party. Sì, un marroni party. Dai. E niente, se volete vi ridò gli ingredienti della torta. Sì, ricapitoliamo. Allora, 250 grammi di burro, 250 grammi di cioccolato extra fondente, 250 grammi o 200 di zucchero, 135 grammi di latte, 4 uova, una tazzina di caffè, 50 grammi di cacao in polvere amaro, 215 grammi di farina e una bustina di lievito. E poi a letto. E poi sì. E poi sì, un'ora e mezza di cottura. Però ieri sera buonissimo. Con una torta ci abbiamo fatti i quadratini, ci abbiamo mangiato in 20 persone, sì. Giusto per rifarsi. Ognuno ha preso una fettina, tranne me che ne ho prese tre. Infatti Guido lo guardavo con la coda dell'occhio alla prima, la seconda mi ha guardato pure lui, ha detto vabbè, finché il secondo pezzo mi posso far vedere. Al terzo l'ho guardato di nascosto. Ero divertitissima. Oh, mi è piaciuta, ragazzi. Hai fatto bene, Guido, hai fatto benissimo. E il giorno dopo con il latte Inciuppato. Grande colazione. Sì, grande colazione. Quindi 2 ore fatte ti sei rifatta colazione? Ma che ho bevuto un caffè e sono uscita di casa, ragazzi. Vabbè. Ho una fame sgaiata. Va bene. Va bene, benissimo. Ok. Grazie. Detto, vi salutiamo. È stata una bella momento. Sì. In due mi è piaciuto. Nuova questa cosa. È nuova questa cosa. Magari la prossima volta ci organizziamo un attimo meglio. Va bene, la prossima volta facciamo così. Lo annunciamo così non ci possiamo tirare indietro. Va bene, facciamo. Sì, lunedì sì. Cioè, sì, dai, bravo. Aspetta, fai vedere. Sui marroni, allora. Sui marroni? Si fa a tema, marroni. Sui marroni, va bene. Porti qualcosa di che viene dal però sud. Però porta qualcosa da mangiare. Io porto qualcosa da mangiare di marroni dal nord. Sì, se poi lo portate anche fisico già fatto che possiamo mangiarlo. E questo che sto dicendo. Vola tutto. I marroni a maggio. Giustamente dicono marroni a maggio, non a maggio. Lì lo rompi tante coglione tre volte. La verdura di stagione, usate la hai ragione. Però te sì, in verità sei uno sciocco, perché non sai che la farina dei marroni la conservi tutto l'anno. Quindi la fai a dicembre. E quindi guarda. Vabbè, dai, ora per sparare una stronzata, poi vedremo. È un punto a me questo qua. Sì, sì. Va bene, grazie ragazzi per questa meravigliosa, come sempre, bene. Parte culinaria e adesso... Music. Impastando si impara. Vai. La proteina. Yeah. Babara bara bara babara bara ere ere ere. Questi sfondi sono della nuova grande cartella degli sfondi. The Big One. È bello, eh? C'è sempre una canzone nuova. The Big Bag. Viva. Senti, io ho notato un po' di cose. Prima ho visto tipo il tasso ha fatto una mossa mentre leggeva, incredibile. Cioè, sta zanzara gli stava andando in faccia. C'è questo fatto che c'è le zanzare, mi turba già tantissimo. E mentre leggeva, concentratissimo a leggere, ha fatto questa mossa di collo, di corpo. Mm-hmm. Ha spostato la zanzara senza guardare, l'ha presa nella mano e penso l'abbia ucciso. Ha fatto una mossa veramente da lettore esperto. Onore eterno. Onore eterno. È stato molto ninja. Bello. Ninja. Senti, allora, ma cosa accade nella nei prossimi città, giorni? Che noi il lunedì siamo soliti ricordare un po' cosa succede. Anche perché è lunedì, settimana. Quindi uno sta lì a vedere solo e dice cosa fa, cosa un po' oggi, domani, domani all'altro. Ma esatto. Un po', no? E noi vi facciamo una carrellata di cose che succedono, che a noi ci interessano e magari interessano anche voi, esatto. Magari no, però. Poi, come abbiamo detto ieri in diretta, se poi avete delle cose da suggerire, da ricordare, scriveteci a postawombat@chiocciolensiberia.org. Punto net. Sì. Sì, sì, magari a noi ci sfugge qualcosa e ci sta. Sì, è vero. Allora, volentieri, diciamo. Andiamo con ordine. Andiamo con ordine, domani. Perché tomorrow. Tutto ciò, poi ricordiamo tutte le settimane che c'è questa assemblea pubblica, quella di comunque aperta a tutti, di ribellarti. Domani sarà fatta sempre alle 18, però non in polveriera, ma in Viale Corsica. Esatto. Quindi vi invitiamo. Però dopo... Viale Corsica 81. Viale Corsica 81 alle 18. Se non fin verso le 20 al campanello, lanciate dei sassolini alla finestra. Ok. Ok. Va bene. Really? Sì, perché a volte non funziona il campanello, diciamo. Ok. E quindi c'è una scorta di sassolini lì fuori. Sì, c'è un sacco un sacchettino di... No, no, c'è proprio il ghiaino intorno. Ah, okay. Ah sì, è vero, in effetti c'è il ghiaino. Poi però lo stesso giorno, ossia domani, cioè domani sempre, sì. Mm-hmm. In polveriera inizia un ciclo di incontri, cioè in particolar modo di quattro incontri. Ok. Dal titolo Hack Feeling. Sì. Ciclo di film e chiacchiere su attivismo, sì, scritto con Lacher, perché sì, parleremo sì, tendenzialmente dell'uso consapevole della tecnologia. Esatto. In questa iniziativa. Esatto. E per invogliarvi a partecipare abbiamo pensato... Di proporre anche dei film, cioè ci saranno dei film. Esatto, introdurranno anche... e faranno partire un po' il discorso. E quindi metteranno esatto, ciò di cui discuteremo. Il primo film è domani. Domani alle 20 è We Are Legend. Esatto. Che è un film, io non l'ho visto. Non neanche io, infatti voglio vederlo. Esatto. Però sappiamo più o meno. Sì, parlano di Anonymous. Ok, quindi di un collettivo molto ampio, nel senso che poi ha sfaccettature particolari di cui parleremo domani. No, sarà molto interessante perché a livello visivo Anonymous insomma ha fatto, no, un gran lavoro. Poi dopo nella storia si sa un po' meno, nella storia effettiva. Sì. E parleremo anche di questo. Esatto. No? Sì, sì, assolutamente. No, anche per poi non so veramente come è fatto il film, come è fatto il documentario, penso sia una sorta di documentario. Sì. Però penso che verranno citati quegli episodi in cui Anonymous hanno rotto i coglioni, diciamo, a vari enti, aziende che operano in un certo modo. A me vengono gli esempi, mi ricordo un attacco che fece ai siti istituzionali di Israele dopo l'ennesimo sì, repressione del... contro i palestinesi, e spensero tutto dicendo, mandando anche un messaggio in cui scrivevano noi siamo legione, da qui il titolo del film, infatti, esatto, che è un documentario appunto. Poi ci saranno altri film, sì, a seguire, che abbiamo scritto da qualche parte, sì. Eccoli. Allora, a seguire ci sarà Zero Days. Quando? Zero Days, il 22 marzo. Okay. Mercoledì, è un mercoledì, sì. Poi la settimana dopo, sì, sempre di mercoledì, quindi il 29, ci sarà Akit Story. Sì. Story. E poi invece cambiamo, torniamo al martedì, anche un po' per sì, cambiare un po' il giorno. L'11 aprile, Citizen 4. Ok. Diciamo noi perché alla fine, insomma, ci siamo anche noi dentro questa cosa. Perché sì, è perché ci interessa, cioè, ho esatto, visto un attimo. Sì. Quindi sì, vi invitiamo sì, a venire in polveriera anche per vedere, insomma, cose che di solito non si sì, vede, non sono nei circuiti. Sì, ma più che altro per, anche per per parlare per, e soprattutto non perché anche. Poi l'intento dei film è più che altro dare l'avvio esatto. a dei discorsi che contestualizzino anche cose come appunto il movimento di Anonymous che ha appunto i suoi problemi, i suoi lati oscuri, difficoltà e anche mancanze, perché nel senso se immaginiamo la potenzialità di azioni come quelle che potrebbero fare però stiamo ancora qui a ragionarne, non c'è una reale organizzazione, un reale fine politico esplicito di cambiamento, quindi appunto la prima proiezione servirà anche a contestualizzare un po' questo per parlare poi in modo più ampio appunto dell'uso consapevole della tecnologia e del mondo hacker che si muove ben al di là del appunto del ben oltre il movimento di Anonymous ben oltre cioè, sì ben detto altro, bene che si muove appunto andremo a scoprirlo nel corso di questo ciclo di film e approfondimenti che probabilmente sarà anche solo l'incipit queste prime quattro proiezioni sì, il discorso che porteremo avanti sulla sull'uso consapevole della tecnologia no? Sì, probabilmente magari se c'è riscontro verranno fatti anche dei laboratori esatto. più tecnici. Non quindi vi preoccupate dai. Perché se rimanete collegati a un fuoco alle polveri sapete sempre subito tutto. Bene. Andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. Mercoledì, sempre in polveriera, Machine Funk, sì. è il collettivo musicale. Sì. Qui ci sarà anche l'aperitivo, quindi insomma giornata lunga di cucina e rap dal vivo. Esatto. Esatto, cucina e rap dal vivo. E quindi dai, bello. Si va direttamente poi a sabato, in cui dalle 20 ci sarà l'aperitivo in polveriera e Arcano 13 del collettivo Zugzwang, giusto Andre? Si dice sì, così. Un collettivo poetico che viene da Roma. Esatto. Okay. Ha una performance... Poetica, diciamo. Immagino sono sì, sì. Quattro ragazzi che vengono appunto da Roma. E quindi siamo molto curiosi. Io sono molto curioso, sì. Assolutamente. Questo sabato. Poi nella notte di sabato. Avete scelta. Avete scelta. Avete cioè, scelta. Al CPA ci sono i Matrioska e l'Ivanoska. Ivanoska abbiamo avuto qua e Matrioska che hanno contornato la nostra gioventù. E sì. E invece all'Emerson... Through Sound System. E One Dance. Quindi sera suona anche all'Emerson. Esatto, un sound system nostrano e uno invece da fuori. A portare un po' di reg, ma in generale, insomma, il sound system. Ok. No, non il Sud Sound System. Sound System. Two Sound Systems. E no, One no, Dance. No, non ci sono i Sud Sound System. No. Ok. Queste sono un po' le cose che ci sono venute in mente da dirvi di proporre, appunto, però scriveteci magari appunto anche alle altre trasmissioni, vengono anche dette le altre trasmissioni cose, le insomma. Dicono, quindi basta essere connessi con Wombat Radio e Radio Wombat e lo scoprirete. Ok, potremo ascoltare, allora possiamo scegliere tra ascoltare una canzone o farci consigliare una profezia da Lillo. Una profezia? Lo vuoi volete fare? Volete una profezia? Forse no, sì. Ma io non sono profezie, dai, sono profezia, esagerato dai. Okay. Piaceva questa idea della profezia. Anche perché quello che ho trovato per oggi è abbastanza scontato, anzi ma io non lo conoscevo. Ah, mi ha detto che è conosciutissimo. Ah, vediamo. Vediamo se lo conoscete. Vai. Un po' rappresenta quello che sta succedendo in questi giorni, no? Comunque siamo in inverno ancora, abbiamo ben più di una settimana, 10 giorni d'inverno, quasi 2 settimane. No, oggi cos'è? 13, quindi sì, no, allora ancora ci sono ufficialmente, sono ancora 8 giorni d'inverno, comunque va bene. Il proverbio dice che non ci fu mai marzo così tristo da non mandare il cane all'ombra. Io non l'ho mai sentito, ovviamente, come tutti quelli che hai detto. No, neanche io questo, bene, non ci fu mai ci fu marzo così tristo da non mandare il cane all'ombra, e, semplicemente... È normale che a un certo punto a marzo esce il sole, fa caldo, il cane se ne va all'ombra. Non c'è nulla a fare, dici. Ma perché per c'è forza caldo? A un certo punto. No, per forza, nel senso che in marzo ci sono dei ci sono abitualmente ci sono c'è cioè qualche giorno in cui fa caldo, effettivamente sì. Al sole ti fa caldo, un cane non è peloso, non è come noi è il primo sole dell'anno e quindi, essendo il primo sole dell'anno, a me personalmente, quando sto 10 minuti al sole, presissima, proprio presa bene, wow, eccetera, eccetera, poi dopo sto rincoglionitissima, capito? Sì. Quindi è anche un modo di dire di stare all'ombra. Lacate all'ombra invece. Lacate all'ombra. Dovremmo rifare il... Vabbè, letto. Però nel senso, noi non abbiamo il pelo, cioè ci stiamo bene al sole, tutto sommato adesso. Cioè. Sì, però è un no, sole io lo agogno a te. Da prendere con cautela. Diciamo. Con cautela. Cremina. Cremina, dici, a marzo, ci prendono per il culo tutti. Tutti, tutti, giustamente. Ci si crema a marzo. Sono scelte. Marzo è pazzo. Marzo è pazzo. È vero. Oh. Mia nonna lo diceva sì. sempre, marzo è pazzo, perché oh. appunto c'è sole, cose... È inutile che non mi sento? Ora mi sì. Sento. Cioè. Dicevo sempre, mia nonna diceva sempre a marzo, marzo è pazzo, perché il tempo è proprio imprevedibile, sì. quel mese dell'anno a cui non si può far affidamento, diciamo. E questa è un po' la lunga storia del mondo. E dei bar, perché questo è, cioè, sono, è l'argomento principe del quando non sa cosa dire a una persona. Oh, allora va il tempo. Esatto. Siamo un po' fuori. Non sappiamo più cosa dire. Quando non sappiamo più cosa dire, cosa secondo me facciamo parlare la musica. Bravo, vai. Wombat. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Facciamo gli auguri a Martina. Party people, your dreams have now been fulfilled. Certo. Tanti auguri. E rieccoci qua, rieccoci qua. Questo pezzo è sempre, mi fa sentire sempre più leggero e scanzonato. Sì, era bello. L'ho messo all'inizio, lo rimetto. L'eroina, lo sapevi, vero? No, no, ma è come suona, non cosa dice, perché chiaramente... Questo lo sai, Guido. Sì. Oh, senti, noi siamo verso la fine. Qui siamo strapopolatissimi, è bellissima questa cosa. C'è un sacco di gente intorno. Se qualcuno tra l'altro vuole intervenire, allora potremmo l'argomento, che c'è Martina qua, e l'argomento può essere il fatto che la Kate ora ci ha appena detto la ricetta della torta che ha fatto ieri sera, e quindi un commento se vuoi sulla torta di ieri sera, era per te tra l'altro. È sparita tutta, era buonissima, l'ho portata a casa al tempo 10 minuti, i miei conculini hanno fatto festa, peccato che doveva essere la mia merenda, la mia chimica, tutto, e peccato non abbia fatto parte, scusami, non so la ricetta, però immagino che sia, non lo so, com'era la ricetta? Bella, puoi riascoltare sul podcast, perché prima l'abbiamo detta. Come? Esatto. Suppongo che ci fosse cacao... Tavolette di cioccolato fondente. Sì. Quante uova? Poche? Quante uova? Quattro. Ma c'è tanto quattro. Di tutto in realtà. C'è tanto di tutto. Puoi ascoltare tutta la ricetta integralmente sul podcast di Fuoco alle Polveri, che caricheremo. Riceverai stanotte in omaggio un copripiumone. Nel marciume. Sì, un copripiumone. Vabbè, sì. E allora. Bene. Di torta, copripiumone di torta. No, allora. È un po' il tuo momento adesso. Sì, è arrivato il mio momento. Te allora, ti riscaldi. Io sono pronto. E sei pronto? Dai, dai. Sono all'angolo parto. Allora, ieri sera ieri sera c'era un gruppo in polveria che suonava, che era il collettivo 43, sì, che ci ha animato nella serata, che cantava. Bravi anche, erano bravi, sì. Più che altro avevano un due fratelli, sì, è vero. Sono due fratelli, esatto. E avevano costruito tutto, secondo me, piccato la console. Era un sacco. Scusate, sono un fratello e una sorella. Giusto. Lui e una lei. E noi cosa abbiamo detto? Due fratelli. Sono fratelli, giusto. No, no, è giusto. E va bene, non facciamo problemi. Molto belli da vedere anche. E mi era stato chiesto. Sì. L'ho detto che cantavano in giamaicano. Cantavano anche. Cioè, lei ha anche. Cantavano in italiano, no, in inglese. Ho detto una volata. E anche, sì, esatto. E anche. In giamaicano, che è un misto tra un inglese e diversi dialetti, sia del Centro America sia africano. È una lingua un po' complessa. Sì. La settimana scorsa mi era stato chiesto, nella nuovissima scintillante rubrica Detti dal Mondo, sì, un detto giamaicano. Personalmente curata da te questa rubrica. Personalmente curata dal mio inviato, sì, che okay, sono io. Me stesso mi dice. Sì. E l'ho trovato. Oh. Allora. Not in the same day, leaf drops and a river bottom rotters. Ossia, sì, non nello stesso giorno la foglia cade, sì, e la superficie del fiume marcisce. Allora, secondo me la traduzione più corretta, perché sì, ve l'ho ecco detto, io vado a cercare questi detti, però le tue fonti sono discutibili. Le fonti sono discutibili, quindi io le metto in discussione e cerco un attimino di tirare le somme. Quindi la traduzione secondo me non è correttissima. Dai una tua interpretazione. La mia interpretazione... Allora. Esatto, esatto. E infatti, volevo dire proprio questo. È il fondo del fiume, quindi la... Sì, quindi la foglia non nello stesso giorno mi sto intortando perché allora mi parlano dietro, cioè stiamo facendo la radio, ragazzi, quindi se per favore non è Radio Verità questa, ci sono anche i disturbatori. Che sei, deve essere sì, no, perché una certa poi uno se no Fottatin, diventa palloso all'ascolto. Quindi vi dicevo che secondo me appunto non nello stesso giorno la foglia cade e non nello stesso giorno poi affonda piano piano lentamente e muore. Quindi è un po' un detto che senti riprende la vita. Va facciamo, bene. Senti, una, facciamo il posso game, chiederti facciamo qualcosa? Facciamo partire il game? Sì, c'è qualcuno che ha un paese in testa all'interno di tutto il globo e che vuole sapere cosa? E che probabilmente lo vada succedendo dall'opera fare roba la prossima volta. E quindi, e poi... Qualcuno? Lo Zimbabwe, se non ti dispiace. Lo Zimbabwe, questo è il fenomeno di gioco che è venuto a trovarci e che ci chiede lo Zimbabwe. Ora faccio Zimbabwe io la difesa andare di Guido. È un paese come nazione o un paese? No, allora, un paese... No, va bene, Zimbabwe, in realtà io ho diversi detti arabi, africani, e che però Africa vuol dire una mazza, non è una nazione, quindi vabbè, e quindi ci impegneremo per la prossima volta. Posso dirti io uno? Sì. Islanda. Oh bravo, mi sa che ce l'ho Islanda. Vai. Ora devi cercarlo. Ora ci metto un quarto d'ora in, in un file folle alla fine. Cos'è la verità, diciamolo. È un file pazzo. Aspetta, danese, svedese, ci siamo. Aspetta, è tutto mix. Islanda. Sei spacciato, dai. Sono spacciato. È finita. Ti chiedo io quello yiddish, dai. Vuoi quello yiddish? Sì. L'imbecille cade sulla schiena e si sbuccia il naso. Perfetto, dai, a posto. Per la prossima volta un detto islandese, allora. La prossima volta detto islandese, e se ci fosse qualcosa dello Zimbabwe, Giove anche almeno. Zimbabwe, però no, certo, preparo tutto quello che mi chiedete e lo preparo. Dai, comunque Zimbabwe devo dire che Islanda. Gli yiddish hanno sempre un sacco di detti molto divertenti. C'è nulla da fare. Senti, andiamo a chiudere. Prima di chiudere ascoltiamo l'ultima canzone, magari una grande gioia. Così, dai, un po' proviamo. Per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Scrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Thank you. qua c'è una redazione dietro di noi, diciamo così, che è impazzita di fronte alla possibilità di interpretare e tirare fuori nuovi detti dal mondo. Bellissima questa cosa, questa sua nuova rubrica in realtà ha revitalizzato, stimola la nostra fantasia, sì. È interattiva, è per quello che è bello. Quindi adesso faccio una domanda a questa redazione, che diteci. Allora, il detto giamaicano, se vuoi, la tua interpretazione, cioè la foglia non cade lo stesso giorno, sì, che marcisce sul fondo del fiume, sì, quindi vuol dire che quando casca la foglia, sì, la, la foglia te nulla, c'hai tempo per pensarci prima che marcisca, quindi nel senso puoi anche prendere e levarla prima che marcisca, o comunque in generale risolvere il problema. Qualcosa, la tua, sì, interpretazione, esatto, sentivo, cioè, prima era, sì, sì, sì, è che ora mi sono impappato perché così. Hai detto perché, la parola foca, perché ho anticipato in realtà il detto islandese, abbiamo trovato, ok. Recita, vai. When the seal is away, when, sì, quando le foche sono lontane, fishes dance, i pesci ballano. Bene, pesci ballano. Quindi questo era il detto islandese. Questo, probabilmente, sì, semplicemente, sì, questo ha animato così tanto la folla dietro di noi. Bisogna vedere se poi ci sono le foche in Islanda. In Islanda è tutto da verificare. L'Islanda ci sono, dovrei indagare anche su. Ci sono le foche. Sì, sono sicuro. Ma i pinguini ci stanno. Sì. Vanno a caccia di foche gli islandesi, sì. Anzi no, hanno un problema perché ci sono intere famiglie che vivevano di quello, la caccia alla foca è stata resa animale in via di estinzione, hanno detto non la potete più pescare, e loro, e mo che si fa? Un cazzo, perché nulla, l'Islanda in realtà è un paese molto povero, proprio anche per questo. Vabbè, l'Islanda, non è che, insomma, vabbè, so che confuso la Groenlandia, comunque. No, ok, va bene. Non vi litigate, ragazzi. Non ci preoccupiamo troppo dell'Islanda. Piuttosto, che si fa? Ci si saluta? Salutiamo tutti? Che dite? Sì, è arrivato il momento, dai, di concluderla qui. Dai, siamo puntuali finalmente. Sì, ma già da un po' siamo puntuali, siamo bravi, dai. Sì, un paio di puntate. Ciao a tutti. Rimanete sintonizzati, assenti. Vi ricordiamo che alle 21 c'è la revancia. Bravo. Quindi rimanete qui su Radio Wombat. Salutiamo anche chi non c'era oggi. Marcav ci ascolta probabilmente da un pullman, addirittura dice, che attraversa l'Europa, che c'ha la wifi però, e quindi sperava wifi, di riuscire, sì. Cos'è? Wifi per lui. E Nico tornerà, dice, la prossima settimana con un schermi, sì, con una rubrica scoppiettante. Noi ci sentiamo lunedì prossimo con fuoco alle polveri. Wombat. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Wombat. Possiamo fermarci, è troppo pericoloso, dobbiamo prima rallentare. Stronzate! Fermate questo affare, è un ordine! Stop! Ecco qua, permetta che l'aiuti, signore. Sta bene, signore? Benissimo. Lei come sta? Benissimo, signore. Bene. Meno male che aveva il casco. Già. Adesso che facciamo, signore? Allora, abbiamo frenato? Abbiamo frenato, signore. Bene. Allora pausa, 5 minuti di pausa. Benissimo, signore. È permesso fumare?